sei ore di lavoro, solo che lei, il consiglio regionale è sciolto, ma per l'ordinaria amministrazione resterà in carica, comunque ufficialmente rimarrà in carica di fatto fino alle prossime elezioni, o meglio, mettiamola così, lo stipendio verrà dato comunque ai consiglieri. Sa che hanno fatto i calcoli e lei prenderà 50.000 euro circa fino alle prossime elezioni, cioè ogni mese le verrà corrisposto lo stipendio da consigliere regionale per essere stato lì di fatto sei ore. Ma senta, prima di tutto si tratta di questo. Io non ho ancora, ieri sono stato tutto il giorno in regione, però tra dare un'occhiata allo statuto, al regolamento, eccetera, eccetera. L'unica cosa di cui sicuramente non mi sono occupato, ve ne siete occupati voi forse, quindi io non posso ne confermare meno. No, glielo confermo, ci siamo informati. Sono 3.299 euro di indennità di funzione, 2.341 di diaria, le spese di rimborso, credo che lei abiti nel Bergamasco, e quindi le spese di rimborso, e 3.525 euro per missioni nel territorio regionale. Insomma, sui 10.000 euro al mese, ecco. Io quindi, da quello che mi dice lei, perché ripeto non mi sono assolutamente informato, dovrei percepire né più né meno quello che prendono gli altri consiglieri. Praticamente io sono subentrato al collega Sola e prendo quello che avrebbe preso lui, penso. Sì, certo, ecco, quindi... però lei capisce, ha vinto un po' la lotteria, è stato sei ore in consiglio regionale. No, andiamoci piano, io sono stato sei ore, prima di tutto in quelle sei ore si è approvata una legge molto importante, perché lei d'accordo, sa che la legge elettorale si è tolto il famoso listino sul quale sono state moltissime polemiche, si è introdotta anche l'alternanza dei maschi con le femmine nelle liste elettorali, ci sono diverse modifiche. Ma d'accordo, però mi scusi consigliere Spada, sono sempre sei ore, saranno state intensissime, per sei ore lei prenderà appunto 50.000 euro, mi lasci finire per cortesia. No, poi si tratta, poi come ha detto il presidente Formigoni, venerdì mattina in giunta hanno approvato il bilancio di previsione 2013 verrà approvato da questo consiglio, seppur dimissionario, quindi per approvare un bilancio non penso che si farà né una né due né tre riunioni, ma molto di più. Molto di più. Inoltre, prima della scadenza, sempre questo detto dal presidente Formigoni, quindi non a me, quindi non possiamo metterlo in dubbio, dovremo recepire anche con legge regionale, quindi penso che ci sarà non solo quindi vi riunirete per quello, i provvedimenti del governo con legge regionale, dovremo recepire il provvedimento del governo sui tagli della spesa pubblica. Quindi lei dice, sono altre sedute, quindi sono soldi meritati, voglio dire, sono lo stipendio. Io prenderò né più né meno quello che prenderanno gli altri consiglieri. Ma su questo non c'è dubbio. Quello che farò io, dopo tra i consiglieri si sa che come succede in tutte le famiglie, c'è quello che lavora di più, lavora di meno.